Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente di Cipro, anche perché le banche, ci collegheremo con l'inviato del Sole 24 Ore a Cipro, ma le banche restano chiuse anche domani, quindi a questo punto riapriranno forse venerdì. Il governo cipriota sta esaminando la possibilità di imporre restrizioni sul movimento dei capitali. L'arcivescovo, qualora si decidesse chiaramente di far riaprire le banche, il timore, che è quasi una certezza, è di una fuga di capitali valutata adesso in almeno il 10% dei depositi, ma potrebbe essere più alta. L'arcivescovo di Cipro, capo della Chiesa greco-ortodossa cipriota, ha messo a disposizione i beni della Chiesa, a disposizione dello Stato chiaramente. Non vi è accordo tra Cipro e Russia, mentre, come tutti ormai sapete, ieri sera il Parlamento cipriota ha bocciato il piano di prelievo forzoso dei conti correnti. Quella, la grande trovata, e quindi inizio a essere polemico, con l'ultimo Consiglio europeo su un tema arcinoto, su un problema molto conosciuto. Si potevano trovare varie soluzioni, ma cosa c'è di meglio che spaventare tutti i correntisti dell'area euro e gli investitori esteri, iniziando a fare un primo test sul criceto cipriota, quindi prelievo forzoso dei conti correnti? Benissimo. La cosa che mi fa impazzire è che adesso tutti mettono le mani avanti. Van Rompuy, presidente permanente del Consiglio europeo, dice: siamo tutti molto preoccupati nell'Unione europea per la situazione a Cipro. Potevate pensarci lo scorso Consiglio europeo. Schulz, quello che è il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, a Cipro non va imposto un fardello ingiusto sulle spalle della gente comune, delle piccole imprese. Bisogna rinegoziare finché paghino coloro che possiedono di più. Va detto che l'Europarlamento, a differenza del Consiglio europeo, che è fatto dai capi di Stato e di Governo, l'Europarlamento è sempre stato critico, ha sempre contrastato l'ipotesi di un prelievo forzoso. Ma tant'è, Angela Merkel, cancelliera tedesca, ha detto: trovare una soluzione per Cipro è un dovere per l'Eurozona. Cipro è un nostro partner nella zona euro ed è un dovere trovare una soluzione. Aggiungo io, è un dovere trovare una soluzione anche perché le banche tedesche, come già nel caso greco, sono molto esposte su Cipro. Sono le seconde più esposte, poi vedrò anche i vari dati su questo. Ma sono le seconde più esposte quanto a prestiti concessi a Cipro. Ed ecco perché, secondo i più maliziosi, la Germania preme così tanto perché il costo della ristrutturazione del debito cipriota venga sopportato dai cittadini ciprioti, perché non vuole che paghino le banche, visto che poi le banche tedesche sono creditrici in molti casi. E infatti, come capitò con la Grecia, lo dico perché le analogie purtroppo sono molte, alla fine si è dovuta arrendere la Germania. Infatti in Grecia l'haircut c'è stato, cioè il taglio di quelli che erano i debiti greci, ridotti quasi la metà. Per cui se uno vantava un credito di 1 milione di euro dalla Grecia, adesso vanta 550.000 euro. Però dico, per arrivare lì ci abbiamo messo un anno e mezzo. E anche in quel caso le banche più esposte erano quelle tedesche e quelle francesi. Dicevo, su Cipro, queste le dichiarazioni di Angela Merkel: riorganizzare le banche è un presupposto per gli aiuti. Ancora, due grandi banche a Cipro rischiano l'insolvenza e quindi la situazione è seria. L'ho detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert a Berlino. Le banche devono poter essere risanate, ma non possono essere aiutate con i soldi dei contribuenti dell'area euro. Se le banche dovessero essere insolventi, i danni per gli investitori sarebbero più gravi di una loro partecipazione. Devono partecipare gli investitori, ma sarebbero gravi danni anche per chi ha prestato soldi a Cipro, aggiungo io. E poi però ci sono sempre dichiarazioni interessanti, perché il Partito Liberale, l'FDP, Bruderle, il capogruppo al Parlamento tedesco, dice, che è un ex ministro delle finanze, dice: non vogliamo buttare fuori Cipro. Attenzione, perché qua proprio il déjà vu con la Grecia si ripresenta ogni giorno. Non vogliamo buttare fuori Cipro, ma la solidarietà nell'Eurozona non può essere a senso unico. È pensabile un'uscita di Cipro dall'euro. E vai, così. Ancora ci sono varie dichiarazioni. Vienna, il ministro delle finanze Maria Fechter, no ai fondi della Banca Centrale Europea senza un nuovo piano per Cipro. Il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle invece ha detto dell'Italia è un paese forte e stabile e troverà la sua strada. Non faccio commenti sulla politica interna italiana, si potrebbe essere fraintesi, e consiglio anche agli altri politici di fare affermazioni ponderate. Westerwelle, per quello che vediamo, è uno dei più ragionevoli in Germania, più equilibrati nelle sue dichiarazioni. Poco equilibrato, e concludiamo questa rassegna italo-cipriota, mi sembra il ministro delle finanze svedese Anders Borg. Forse meglio Bjorn di Anders quanto a Borg, perché il tecnico non capisce. Bjorn Borg era un vecchio tennista, è troppo giovane, il tecnico di regia, sposato con la Bertè, Pietro, informarsi. Dico meglio Bjorn Borg di Anders Borg, perché Anders Borg oggi se ne è uscito con una dichiarazione morbida. L'Italia è una significativa minaccia per la stabilità economica dell'area euro. Bene. La vicenda Cipro non potrà mai avere conseguenze così gravi per l'area euro come potrebbe averlo potenzialmente lo stallo politico italiano. E anche lì siamo all'ovvietà, ma è giusto creare nuove insicurezze in Europa. Complimenti al fratello di Bjorn Borg, no scherzo, Anders Borg. Ultime due dichiarazioni, il ministro Passera su Cipro: la cattiva gestione delle banche deve essere coperta dagli azionisti e in caso dagli obbligazionisti, mai dai piccoli depositanti. Ha ragione Passera, ma che senso ha chiedere che chi ha il conto corrente in una banca debba coprire i buchi che la banca ha creato con una cattiva gestione? Che lo chiedessero agli azionisti della banca e a tutti i riferimenti, piuttosto ai creditori, perché obbligazionisti vuol dire anche questo, ma non ai correntisti, che non hanno nessuna responsabilità su come vengono utilizzati i loro soldi. Ma stiamo scherzando. E il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, delle banche italiane, dice non se ne parla nemmeno di un'ipotesi di un prelevo forzoso dei conti correnti degli italiani, che era la proposta geniale avanzata ieri dal capo economista della Commerzbank, banca fallita, e lui si chiama, perché il nome, dov'è il capo economista della Commerzbank? Va bene, banca fallita e salvata dallo Stato tedesco con 16 miliardi di iniezione, che però adesso dà lezioni magistrali a tutti, spiegandoci cosa dovremmo fare in Italia: un prelievo forzoso del 15% sui depositi, che non è una patrimoniale, perché almeno la patrimoniale va a vedere la ricchezza vera, immobili, quant'altro. Ripeto per l'ultima volta, nel conto corrente uno può avere 100.000 euro perché sono dei risparmi di una vita tenuti per il futuro, per i figli, per gli studi, per la pensione, e uno può avere 100.000 euro perché ha appena comprato un immobile da 30 milioni di euro e quello gli è rimasto, ma per favore, o magari perché il resto ce l'ha in Svizzera, in Liechtenstein, in Lussemburgo, eh? Ma bisogna veramente essere... La buona notizia di oggi riguarda la Sicilia, è arrivata ieri in serata in realtà, l'alleanza PD, l'esperimento siciliano di Crocetta, PD Grillo, porta all'abolizione delle province, cancellate quindi le elezioni previste a fine maggio, e stima Crocetta un risparmio di 100 milioni di euro. Non è una vittoria dei grillini, ha detto Crocetta, ma è un percorso condiviso con loro. Ne parleremo più avanti, anche perché abbiamo qualche notizia invece su chi non riesce a risparmiare in nessun modo, dal Piemonte arrivano notizie non edificanti. Buona notizia è quella della Sicilia. Nel giorno, e lo dico, non è una presa per i fondelli, oggi è la giornata internazionale della felicità. A giudicare il meteo, le dichiarazioni su Cipro, quello che sta uscendo dalle consultazioni del Quirinale, sembra una presa in giro, però è la giornata internazionale della felicità, l'ha istituita lo scorso aprile l'ONU. Oggi bisogna essere felici, ok? Come in un film che si chiamava Brasil, qualcuno ha visto, non il tecnico perché se non conosce Bjorn Borg non può conoscere neanche Brasil. Dicevo, oggi bisogna essere felici, e quindi dedichiamo un nostro stacco per le altre notizie in breve proprio alla felicità, al mondo felice, come no. Allora, Sì, si chiama Cramer, il capo economista della Commerzbank di ieri. Mi scrive un ascoltatore: lei è un frustrato, la Germania se la sogna anche di notte, ho parenti lì, forse non l'ascolterò più e passerò parola per farle perdere ascolti. Ma che? Lovra. Guardi, io non so, non mi sogno la Germania di notte, non mi sogno, sarebbe una battuta ma non la faccio, dai. Non mi sogno i tedeschi, dai, non la faccio. Andiamo avanti, seri, su sulla borsa. Più 2% il MIBTEL in questo momento, più 2,1%, Parigi più 1,33%, Francoforte più 0,70%, Londra meno 0,27%, l'America guadagna lo 0,41%. I titoli. Fiat è l'unico che cede, meno 0,85%, con l'automatica meno 0,21%. In netto recupero oggi le banche, più 10,6% la Popolare di Milano, più 5,95%, più 6 diciamo la Popolare Emilia Romagna, più 4,21% il Banco Popolare ma anche Mediobanca, più 3,60% Intesa San Paolo come Unicredit e più 3,44% UbiBanca. Non è lo spread il motivo, nel senso che lo spread è praticamente fermo a 325 punti. Bene però anche altri titoli di carattere più industriale, penso ad Ansaldo STS più 5,60% e poi anche A2A più 3,80%. Atlantia più 3,60, Enel più 2,70. Chiedete perché le banche oggi se lo spread è fermo, ma qui siamo nel novero, nell'universo delle ipotesi. In realtà quello che riportano molto le agenzie è che Piazza Affari è la più positiva tra le borse perché c'è una grande attesa per il risultato che emergerà dopo la prima giornata di consultazioni con il governo. Mi sembra un'attesa eccessiva visto che a come stanno andando le consultazioni. Però, grande attesa e un po' di rimbalzo, questo mi sembra già più ragionevole dopo la paura di ieri dovuta a Cipro e quindi oggi c'è chi va a ricoprirsi. Ancora, dicevo, tra i titoli segnalo anche appunto Enel più 2,77, Telecom più 2% come Eni, euro a quota 1,2953. L'oro sale a 1612 dollari per azione, il petrolio in rialzo a 93 dollari. E visto che 10 anni fa sarà pure la giornata della felicità, ma non lo è per gli iracheni, nel senso che 10 anni fa iniziava la guerra del Golfo, 20 marzo del 2003, mamma mia, sembra ieri la diretta interminabile che facciamo a Radio 24, però poi si è scoperto, non è argomento di questo programma, che era tutta una balla l'ipotesi delle armi chimiche e quant'altro, però finora il Financial Times ha ricostruito i guadagni delle imprese private americane coinvolte nella guerra e nella ricostruzione dell'Iraq, perché insomma se non c'erano armi chimiche forse c'erano altri motivi, altri interessi. Allora, finora, lo dice il Financial Times, non la Pravda, finora avrebbero guadagnato 138 miliardi di dollari. Le prime 10 compagnie hanno ottenuto profitti per 72 miliardi. La Kellogg Brown & Root, contratta dalla Holly Barton, in passato guidata dall'ex vicepresidente di George W. Bush, Dick Cheney, ve lo ricordate, Cheney molto falco sull'Iraq, beh, ha ottenuto contratti per 40 miliardi. Il secondo beneficiario è la Kuwait Agility Logistics, il terzo la Kuwait Petroleum Corporation, con contratti rispettivamente per 7 e 6 miliardi. Quindi sicuramente a qualcuno sta guerra è convenuta. 349-238-6666 per i vostri sms e invece la pagina su Facebook di Focus Economia, poi le interviste migliori come sempre. Le ritrovate anche sul sito di Radio 24. Adesso parliamo delle imprese, torniamo sul tema dei 70 miliardi almeno che lo Stato deve alle imprese italiane. Oggi un'importante dichiarazione in un'intervista del Ministro all'Economia Vittorio Grilli sul Sole 24 Ore. Sì, perché ci sono novità anche su questo fronte delicatissimo che abbiamo raccontato con la voce, con la partecipazione dello stesso vicepresidente della Commissione Europea, Tajani. Ricorderete, la settimana scorsa ci ha annunciato in diretta l'accordo con il commissario europeo Olli Rehn per fare in modo che l'Italia di fatto possa restituire alle imprese i soldi che le deve, anzi dare per la prima volta almeno 48 su 70 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Perché? Perché questi soldi che lo Stato italiano e quindi il bilancio italiano dovrà tirare fuori non verranno conteggiati in maniera rigorosa nel deficit, un'interpretazione un po' più flessibile del deficit, anche perché erano soldi che prima o poi lo Stato avrebbe dovuto ridare e non verranno conteggiati nel deficit che conta per i parametri di Maastricht, quindi come se fosse una spesa in più. Era un debito che aveva lo Stato e che andrà a restituire. Oggi in un'intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'Economia Vittorio Grilli dice: dopo via libera della Commissione Europea non vedo ragioni per non andare subito con un provvedimento d'urgenza a sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione. Il ministero è pronto il decreto, ci sono ancora molti aspetti tecnici da definire, stiamo lavorando con la massima urgenza e poi toccherà a Monti decidere quando spingere il bottone. E allora ne parliamo con chi ha condotto una lunga e anche intensa battaglia sul tema. Mi riferisco alla Confindustria, ricorderete anche le dichiarazioni del presidente Squinti sul tema, e ne parliamo con il direttore generale della Confindustria, Marcella Panucci. Buonasera. Allora, le dichiarazioni di Grilli, del ministro Grilli oggi, appunto nell'intervista al Sole 24 Ore, mi sembrano insomma confortanti. Come dovrebbe agire secondo voi il governo? Tempi ma anche modalità? Le dichiarazioni del ministro Grilli sono di grande importanza e dopo la straordinaria apertura della Commissione Europea espressa da Olli Rehn e Antonio Tajani coronano gli sforzi che stiamo compiendo da molto tempo e da ultimo il presidente Squinzi con grande decisione per vedere finalmente riconosciuto un diritto delle imprese, quello di essere pagate per forniture già effettuate. Noi pensiamo che il governo possa agire fin da subito, data l'apertura della Commissione, e le dichiarazioni di Grilli sono confortanti, a partire dal prossimo Consiglio dei Ministri, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurare una rapida liquidazione. Ecco, quanto alle modalità, perché il primo tentativo, quello in cui prosoluto, prosolvendo, si cercò di girare, diciamo, il debito, o meglio il credito che vantano le imprese nei confronti della pubblica amministrazione con le banche, non ha avuto un gran seguito. Dati, anche se non definitivi, parlano di 400 milioni su 70 miliardi minimo. Meno in realtà. È vero, era un tentativo ma aveva una finalità diversa. Era prevista la certificazione del credito dell'impresa finalizzata ad un successivo smobilizzo, quindi ad una operazione di sconto nelle banche. Abbiamo lavorato col Ministero dell'Economia per cercare di risolvere tutte le criticità operative che hanno impedito una diffusa applicazione delle norme sulla certificazione. In realtà la situazione attuale è diversa, qui noi dovremmo avere il pagamento diretto da parte della pubblica amministrazione dei crediti delle imprese. Sui meccanismi vanno approfonditi. Il ministro Grilli nell'intervista di stamattina dava delle indicazioni facendo riferimento alla possibilità che i comuni per i pagamenti in conto investimenti quindi possano provvedere fin da subito derogando al patto di stabilità interno, e questo vedrebbe lo smobilizzo di circa 9-10 miliardi nei confronti delle imprese. Si tratta soprattutto di crediti per lavori e non per servizi e forniture. E poi ipotizza la possibilità di emettere dei titoli di Stato per finanziare la liquidazione degli altri crediti. Un'alternativa potrebbe essere quella seguita dalla Spagna, quindi con un prestito della locale Cassa Depositi e Prestiti che finanzia le amministrazioni che provvedono poi ai pagamenti e rimborsano il prestito in un X numero di anni. Le possibilità ci sono diverse modalità operative, l'importante è che siano individuate quelle che consentano di liquidare al più presto questi crediti. Quindi mi scusi direttrice, se ho ben capito, c'è una prima tranche che voi ritenete prioritaria, 10-19 miliardi? No, non c'è una... No. una questione di priorità. In realtà per noi è priorità la liquidazione di tutti i crediti che le imprese hanno per prodotti, per servizi e per lavori che siano stati fatti per le pubbliche amministrazioni. Il ministro Grilli parla di una possibilità nell'intervista di stamattina, che è quella di liquidare da parte dei comuni immediatamente i debiti nei confronti delle imprese, che sono prevalentemente debiti per lavori. Lavori effettuati, i certo. I soldi ci sono però dei vincoli derivanti dal patto di stabilità. E ipotizza contestualmente la possibilità di emissioni di titoli di Stato per liquidare il resto dei debiti. Noi vogliamo che tutti vengano liquidati, che si trovi una modalità semplice, immediatamente applicabile, che garantisca la più rapida liquidazione. Quindi da questo punto di vista, come direbbe Rigoletto, per voi questo quella pari son, cioè che si usi uno titolo di Stato o che si usi un metodo più spagnolo con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, cambia poco, ho capito bene? Guardi, l'importante sono i tempi della liquidazione, non le modalità. Poi è ovvio che bisognerà trovare le modalità che consentano la liquidazione più rapida, però io immagino che il governo abbia tutte le possibilità per ipotizzare dei meccanismi che rendano possibile questa liquidazione. L'importante è che lo faccia presto, prestissimo. Ecco, voi l'unica variabile che conta in questo caso è il tempo. Voi come Centro Studi Confindustria avete anche stimato un effetto virtuoso di questa, perché non c'è solo, adesso è chiaro che uno Stato di diritto, così come esige le tasse, deve anche pagare i suoi creditori. Però, e questa è la dimensione più diretta e semplice, però c'è un effetto anche virtuoso volano, perché da un lato poi lo Stato su questi soldi comunque incasserebbe un prelievo fiscale, non dimentichiamolo, perché vanno... È chiaro, infatti noi, guardi, il Centro Studi proprio oggi ha fatto delle stime che danno dei dati sorprendenti, e dei dati sorprendenti perché il pagamento di 48 miliardi, quindi dei 48 miliardi su 71, i due terzi che noi abbiamo chiesto nel progetto di Confindustria per l'Italia, determinerebbe nei primi tre anni un più 1% di PIL e più 1,4% al 2018, quindi in cinque anni. Aumenterebbero di circa 250.000 gli occupati, quindi un punto in meno di disoccupazione, e avremmo in cinque anni investimenti aggiuntivi per un più 13,1%. Questo vorrebbe dire per i conti pubblici una diminuzione del deficit al 2018 dello 0,8%, perché evidentemente aumenta anche il gettito, e una riduzione del debito pubblico, e questo è il dato ancora più importante, di un punto di PIL rispetto allo scenario che avremmo in assenza dei pagamenti. Quindi 48 miliardi nell'economia vorrebbe dire mettere in moto un circolo virtuoso che avrebbe benefici per l'economia, per l'occupazione, per i consumi e per il prodotto interno lordo, e anche una riduzione del debito pubblico. Ecco, questa è a dimostrazione che non è importante solo tenere sotto controllo i conti, ci mancherebbe, però finché non riparte il PIL tu puoi tagliare il deficit, questo lo dico a livello poi europeo, quanto vuoi, ma se il PIL continua a calare il tuo deficit in proporzione continua ad aumentare, ed è un esempio di cosa si intenda per iniezioni virtuose liquidità in questo caso, ma non solo nell'economia, perché poi questo genera un percorso virtuoso. Guardi, è esattamente così, e in realtà lo mostra proprio la comunicazione che hanno fatto i due commissari europei. È vero anche che noi partiamo da una premessa di virtuosità dell'Italia, perché i nostri conti pubblici sono a posto, il deficit è il migliore rispetto agli altri paesi europei, e questo ha consentito questa apertura. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro straordinario di contenimento del debito, di miglioramento dei conti pubblici, adesso meritiamo un'azione di questo tipo. Sì, l'hanno fatto soprattutto i lavoratori, le imprese, le famiglie italiane, caricandosi, portato con caricandosi. Grande senso di responsabilità degli enormi sacrifici, però adesso è il momento di dare un segnale. Sì, anche perché, ripeto, il circolo virtuoso vuol dire questo: per un euro che tu ridai alle imprese, che glielo devi dare perché comunque il servizio o il bene te l'hanno già offerto, ne metti in moto un meccanismo che, oltre che generare cassa per lo Stato, perché poi ci paga le tasse l'imprenditore su questo, genera anche un meccanismo virtuoso che permette di far ripartire gli investimenti, quindi di aumentare il PIL e quindi sostanzialmente di ridurre la proporzione del deficit sul PIL, oltre che del debito sul PIL. Visto che siamo su questi temi, direttrice, io vorrei capire una cosa però. Questa è una linea, vabbè, Tajani ci ha detto in diretta, è sicuramente un caso, è un precedente, non so dirle se ancora sarà la prossima linea guida, diciamo, dell'Europa, però è un precedente in cui si va a ragionare su mettiamola così, il deficit cattivo, che è quello che crei quando spendi più di quello che incassi e spendi male, e il deficit buono, che è quello che tu, che è la spesa dello Stato per investire sull'economia, far ripartire l'economia, generare maggiore competitività. Le chiedo, nonostante l'apertura dei due commissari europei, in questo momento stiamo ragionando su un caso un po' diverso, mi riferisco a Cipro, cioè sembra che in realtà la testa e la linea pensante dell'Europa resti: se hai sbagliato devi essere punito, piuttosto facciamo un prelievo forzoso sui conti correnti. Non le sembra in contraddizione con un'idea invece di un'Europa che, oltre ai conti sotto controllo, deve pensare anche politiche per la crescita? Guardi, è in contraddizione, ma in realtà la cosa più preoccupante, come ha sostenuto ieri il presidente Squinzi, è che un prelievo forzoso sui conti correnti mette a forte repentaglio la fiducia dei risparmiatori, e questo noi non possiamo permettercelo. Quindi non è coerente con una politica di sviluppo, non è coerente con una politica che voglia stimolare il risparmio e gli investimenti. Questo è passato in maniera molto chiara. Io immagino che dopo la decisione del Parlamento di Cipro anche l'Unione Europea ne terrà conto, è importante che lo faccia. Allora, guardi direttrice, ci fermiamo qualche minuto perché abbiamo la pubblicità e il meteo. Poi vorrei capire, sempre in una logica di che cosa può fare in più l'Europa, quanto pesa per l'Italia non avere un governo effettivo, cioè un governo che deve fare le funzioni, che è un governo, diciamo, in scadenza, ma e nemmeno con una legittimazione politica forte come risultato elettorale, perché poi quando vai a Bruxelles a contrattare, chiaro, insomma, oltre alle lettere, ai lasciti, alle memorie, altro non riesci a fare. Mi riferisco a Monti nell'ultimo caso. Vedo che molti ci chiedono: ma da dove prenderà i soldi lo Stato? Allora, una volta che l'Europa dice, come hanno detto Tajani e Olli Rehn in questo accordo, l'abbiamo parlato con lo stesso Tajani, che pagare i debiti che vanti nei confronti delle imprese non verrà conteggiato nel deficit che serve per Maastricht, l'Europa ti dà di fatto la possibilità di aumentare il tuo deficit, ma non contarlo come il deficit che conta per i parametri di Maastricht. Ecco come verrà fatto, che poi siano bot fatti per lo specifico caso, o che come in Spagna si chieda alla Cassa Depositi e Prestiti di intervenire sugli enti locali e quindi di agevolare poi il pagamento attraverso questo, cambia poco. Comunque vi sarà un esborso da parte dello Stato che comunque avrebbe dovuto pagare, se permettete, questi suoi creditori, semplicemente non verrà calcolato nel deficit, non farà esplodere il nostro deficit dal punto di vista contabile. Meteo, pubblicità e poi il peso o il non peso politico dell'Italia in questo momento. 17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commenteremo anche la borsa. Vorrei concludere però l'intervista con la direttrice generale di Confindustria, oggi il direttivo, anche le dichiarazioni poco fa del presidente Squinzi, che appunto citava il fatto che con la restituzione dei crediti alle imprese dovuti allo Stato, dallo Stato si genererebbero 250.000 occupati e il PIL crescerebbe di un punto percentuale in più per i primi 3 anni, fino ad arrivare a un punto e mezzo in più nel 2008. Questa è l'elaborazione del Centro Studi Confindustria, citata oggi da Squinzi. Molti chiedono: ma come pagare dei debiti che allo Stato facendo nuovi debiti? Ragazzi, è così che stiamo facendo debito, non è una cosa nuova. La Spagna è riuscita a ripagare l'anno scorso 27 miliardi di euro di pagamenti arretrati in soli 5 mesi, ha inserito questa trattativa a latere degli aiuti ricevuti da Bruxelles all'interno del piano di riforme che ogni paese europeo deve presentare entro aprile. Il ministro Grilli oggi su Sole 24 Ore dice che il governo è pronto, che tecnicamente il decreto si può fare come decreto d'urgenza, il ministero è pronto, e fatelo questo decreto, no? Invece, direttrice, prima della pubblicità, ho capito quello che lei chiede all'Europa come mondo delle imprese: far ripartire l'economia, non solo una visione ragionieristica. Ma non è che un'Italia senza governo non sia un po' deboluccia, senza un governo, diciamo, con la forza elettorale e parlamentare, sia debole e non riesca a far sentire la sua voce? Guardi, io dico due cose. Questa è una fase difficile, quindi è altrettanto difficile fare considerazioni, però io penso che l'impasse politico non possa diventare un alibi per non fare le cose. Alcune cose le possiamo fare e Lo dimostra il risultato di questa azione sui pagamenti e lo dimostrerà ancora di più il governo nell'adottare i provvedimenti necessari per la liquidazione rapidamente. E poi io immagino e spero che nei prossimi giorni avremo delle indicazioni dal Presidente della Repubblica e quindi avremo, spero, un governo. Senta, non sfugge a nessuno che quando noi parliamo però di Europa, e in questo caso appunto lasciamo stare per un secondo Cipro, qui il tema grosso, oltre che i consumi e la domanda interna, beh, insomma, che si lega a questo, noi siamo passati da una crisi che era finanziaria, poi è diventata economica, da economica è diventata occupazionale, e quando le famiglie hanno un disoccupato, un cassa integrato in casa, hanno questa strana caratteristica che tendono a spendere di meno, lo so, purtroppo è così, e quindi anche crisi dei consumi, con un avvitamento perché spendendo meno sui consumi interni, a questo punto molte imprese artigiane, nel commercio, dell'industria, mi interessa poco la differenza, chiudono o riducono comunque gli occupati e quindi aumenta il circolo vizioso. Lei è donna e per definizione anche giovane, non ritiene che stiamo scaricando tutta questa non gestione o gestione ragionieristica, contabilistica a livello europeo della crisi sulla fascia più debole, cioè anche semplicemente a livello biografico mi interessa. Io penso. Immagino che sia anche mamma. Adesso io sono anche mamma di due bambine, quindi spero di non dover scaricare sulle mie figlie, insomma, cattive azioni attuali. Però io penso che ci sia una presa d'atto di questa situazione, che qualcosa si stia muovendo nel senso di favorire politiche di sviluppo anche a livello europeo. Io mi auguro che si prenda consapevolezza dell'importanza di agire su queste politiche, di favorire gli investimenti, perché se non ci sono investimenti delle imprese, se non c'è crescita economica, non ci può essere benessere per nessuno. Questo è importante che passi, guardi. La crescita la danno le imprese, se non riparte l'economia e non ripartono le imprese, non riparte l'occupazione, non ripartono i consumi, e l'Italia non può permettersi di rimanere indietro. Ma lei e le sue figlie, per inciso, cosa direbbe? Non so se siano già in età per andare all'estero, per studiare all'estero. Ma insomma, quando ci pensa, però immagino che a questo punto di vista poi le preoccupazioni funzionano come una livella, cosa pensa? Di farle studiare in Italia? Ma io penso che loro debbano essere libere di scegliere, ma proprio libere di scegliere, non costrette ad andare all'estero. Se vorranno andarci, io mi auguro che sia una libera scelta e non una costrizione. E in questo momento rischia di diventare una costrizione se andiamo avanti così? Se andiamo avanti così rischia di diventare una costrizione. Io mi auguro che le cose cambino, perché abbandonare il proprio paese per costrizione è la cosa più brutta che ci possa essere. Beh, io mi auguro che lei abbia ragione, perché tutti noi abbiamo figli, vorremmo avere. Io sono ottimista. O vorremmo avere. No, ma comunque questo mi interessava come dato biografico. È innegabile che, insomma, la buona notizia con l'intervista di Grilli oggi c'è. Speriamo che arrivi anche qualche buona notizia da Bruxelles, qualche ravvedimento sulla via di Damasco, qualche dichiarazione oggi c'era già, ma mi sembra che Austria, Germania e Svezia invece continuino a pensare ad almeno due Europe, una virtuosa e l'altra meno. Grazie, grazie al direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Arrivederci. E noi resteremo sui temi dell'impresa, la borsa chiaramente ha chiuso, faremo anche un ampio commento di borsa, buona, buona la chiusura oggi, più 2,20% Milano, nettamente la migliore, più 1,43% Parigi, infatti più 0,70% Francoforte, invariata Londra, e l'America più 0,42% sul Dow Jones. Proprio Tron, dovevamo mettere oggi la giornata della felicità, vorrei delle basi un po' più allegre, per favore. L'ha deciso l'ONU che oggi è la giornata mondiale della felicità, uno deve essere felice. Non la pensa così Michele da Monza, adesso non è che io posso leggere tutti i messaggi riferiti al fatto che, quello di cui ragionavamo prima, in Europa qualcosa si sta muovendo, non è che posso leggere il suo messaggio che dice anch'io sento che qualcosa si muove dietro di me, perché manteniamo un principio un po' alto. Uno standing appropriato, come direbbe chi ha studiato. Emanuele Morandi, presidente di Siderweb, il primo portale di siderurgia italiano, che organizza ogni anno una bellissima fiera a Brescia, l'evento italiano dedicato all'acciaio, Made in Steel. Noi siamo il secondo produttore in Europa. Buonasera. Buonasera, dottor Barisoni, buonasera. Non le chiedo cosa sente lei muoversi e dove, perché andiamo su un terreno che non appartiene a questo programma. Allora, 26 milioni di tonnellate prodotte, ne parlo perché voi avete fatto il consuntivo proprio ieri su questo, annunciando poi dal prossimo 3 al 5 aprile a Milano, non a Brescia, sì. Ho detto una cavolata, Brescia è il cuore, la capitale dell'acciaio, ma insomma, essendo Milano la capitale finanziaria, voi lo fate a Milano, alla fiera Milano City, dicevo dal 3 al 5 aprile. Al di là dell'Ilva, dove raccontavamo l'altro ieri come il Tribunale di Taranto abbia accolto il ricorso dell'azienda, insomma, la produzione interna fa meno 5% dell'acciaio, il consumo meno 23%, l'Europa fa meno 4,7%, i consumi meno 10% a livello globale, quindi a voi non vi salva neanche l'export? Diciamo che l'acciaio è proprio il termometro dell'economia reale. I dati pubblicati oggi da Siderweb, sono quelli della World Steel Association, parlano proprio di un risultato febbraio, su febbraio Italia meno 15%. Teniamo conto che i settori utilizzatori d'acciaio si chiamano, come diceva prima la dottoressa Panucci, costruzioni, auto, elettrodomestico, meccanica e chi più ne ha più ne metta. Quindi i nostri settori, diciamo, utilizzatori d'acciaio sono in una crisi che voi state raccontando molto bene. L'Europa rallenta, perché l'Europa rallenta di un 5,7%, l'America pure di un 9,3%, ma il mondo tiene 1,9%. Vuol dire che gli attori e la geografia dell'acciaio si è completamente spostato, infatti l'Asia, che compensa anche con quantità maggiori in modo ponderato, cresce febbraio su febbraio del 5,9%. Quindi Italia febbraio su febbraio meno 15%. Sono dati veramente, veramente pesanti. Ecco, mi faccia capire una cosa però, Morandi. Voi riuscite a fare quello che stanno facendo altri settori produttivi di questo paese, cercare di compensare? Non si riesce mai a equilibrare, l'export pesa per un terzo rispetto alla domanda interna di solito, per cui, però io penso al settore dell'agroalimentare, del vitivinicolo, ma non solo, stanno cercando di pompare, di agganciarsi, di esportare il più possibile in modo da riequilibrare i cali forti della domanda interna. Nell'acciaio questo è possibile o la concorrenza indiano, russo, cinese non vi permette di andare su quei mercati? Diciamo che ci sono nicchie nel nostro settore, sto parlando delle forge, delle trafilerie, eccetera, che riescono a andare molto lontano. I nostri prodotti, sto pensando al tondo per cemento armato, il nostro prodotto tipico bresciano, riesce ad avvicinarsi ad alcune aree, penso al Maghreb, all'Algeria, e qui devo dire che la capacità di innovare, il know-how, la nostra capacità, la nostra creatività impiantistica ci permette di superare tutti i gap tecnologici, tutti i gap che abbiamo noi in Italia e riusciamo ad esportare, perché se così non fosse e se non avessimo questa valvola di sfogo, la capacità produttiva ci metterebbe ancora peggio, ancora in maggior difficoltà, perché i consumi stanno calando molto e la nostra sfida è proprio quella di riuscire a sopravvivere con consumi in calo e con una produzione che comunque non scende più di tanto. Grazie, io in bocca al lupo soprattutto, perché parlare di acciaio poi vuol dire parlare in questo paese di 37.000 occupati, 37.000 famiglie, oltre che diciamo, la produzione che resta la seconda dopo quella tedesca a livello europeo. No, lo dico perché insomma poi è bello parlare anche delle persone dietro, non solo dei fatturati, dei numeri e delle percentuali. In bocca al lupo, speriamo che da Made in Steel arrivi anche qualche... Sì, ci saranno dei segnali sicuramente interessanti, infatti i nostri espositori sono comunque cresciuti da 249 a 312, visto che c'è la volontà almeno di, voglio dire, di agganciare questa idea di innovazione internazionale. Mi dica una cosa al volo, perché ho 30 secondi, Morandi, me lo chiede un ascoltatore, ha ragione, ma il tema della Cina che negli anni scorsi rastrellava tutti i materiali, i rottami, i materiali ferrosi per andare a produrre acciaio, c'è ancora oppure no? Diciamo che paesi così lontani, diciamo che non li sentiamo paesi molto più vicini come la Turchia che rastrellano rottami diciamo in Europa e in Italia in particolare. La Cina, non diciamo che il rottame non può viaggiare per distanze così, okay, così grosse. Minuti, torna Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni, un po' più allegra, sì, in effetti sta base, ripeto, oggi secondo l'ONU, anzi, è la giornata mondiale della felicità, noi cerchiamo di fare il possibile per adeguarci, ma non è che ci stiamo riuscendo granché. Beh, la borsa, oltre diciamo, al via libera dato dal ministro Grilli, che abbiamo commentato con la direttrice generale di Confindustria, al pagamento dei debiti che lo Stato ha nei confronti delle piccole imprese, piccole, medie e grandi imprese, 70 miliardi di cui lo Stato potrebbe iniziare a restituire almeno 48. Scrive un ascoltatore: oggi festeggiamo 28 anni di matrimonio, 4 figli, tutto ok, il mutuo è finito, vorremmo la felicità anche per gli altri. Bene. Comunque, dicevo, l'altra buona notizia che rende felici gli investitori di borsa è il rimbalzo, recupero di Piazza Affari, soprattutto oggi, più 2,20%, Parigi più 1,40%, Francoforte più 0,70%, Londra meno 0,13%, l'America con il Dow Jones più 0,36%. Benissimo le banche, la Popolare di Milano più 11,11%, ieri ha pubblicato i conti del bilancio, ma soprattutto è stata ribadita la voglia di non essere più una banca popolare. Eleonora Micheli, Radio Cori Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Partiamo dalla Pop Milano. La Popolare di Milano oggi ha fatto faville, sicuramente felice, saranno felici gli azionisti. E questo perché? Perché è stata ancora una volta ribadita la volontà di trasformare la Popolare in una società per azioni, e poi comunque è stata apprezzata anche la politica di far pulizia nel bilancio, pulizia che ha comportato una perdita nel bilancio 2012 di 430 milioni. Ma soprattutto hanno convinto anche le indicazioni date dai vertici dell'istituto, che dopo l'aumento di capitale da 500 milioni che sarà appunto discusso in assemblea quest'estate e varato probabilmente in autunno, e un aumento di capitale, ricordiamo, per sottoscrivere i cosiddetti Monti Bond, BPM dovrebbe tornare a staccare il dividendo. Quindi una buona notizia. E poi sappiamo che una banca che da Popolare diventa SPA, tra virgolette, più contendibile, nel senso che non c'è più il voto capitario, una testa, un voto al di là delle quote, non ci sono più vincoli alle quote possedute e quant'altro. Bene anche le altre banche, dicevo, Emilia Romagna più 5,86%, Banco Popolare più 4,5%, Unicredit più 4%, UBI Banca più 3,70%, Intesa San Paolo più 3,40%, Monte dei Paschi più 2,70% come generali. Esatto, sono andate bene, da annotare soprattutto le popolari, sul discorso che facevi tu, se anche la BPM si trasformerà in una società per azioni, perché non potrebbero farle le altre, si sa, la borsa guarda sempre avanti. Oddio, su questo Eleonora, la borsa guarda sempre avanti, sì, non sempre ci piglia, mettiamola così, no? Ci prova. Non è miope, ma insomma ci prova. Vabbè, andiamo avanti, però su quello volete sapere anche del credito valtellinese. Ieri ha chiuso un bilancio in perdita, insomma le banche, le sofferenze bancarie aumentano, cioè i crediti che le banche hanno concesso, su cui non riescono a rientrare, aumentano. Abbiamo fatto intere puntate su questo. Però vorrei commentare anche altri titoli, perché va molto bene anche Mediaset oggi, poi adesso il titolo chiude con un più 5,51%. Sì, in questo caso ci sono due motivazioni. La prima è, come ben sappiamo, sono iniziate le consultazioni per il governo, quindi c'è evidentemente chi scommette che ci sia qualche novità che potrebbe impattare positivamente anche sull'azienda del Biscione. La seconda è incoraggiare gli acquisti, è stata, anche se tu non ne vuoi parlare, una banca d'affari, Goldman Sachs, che ha rivisto al rialzo, ha migliorato il giudizio su Mediaset, e quindi questo ha incoraggiato qualche ordine in acquisto. Ancora, Telecom Italia Media, oggi bene, il titolo alla fine ritraccia leggermente, comunque più 1,70%, ma soprattutto, e qui andiamo sui migliori e peggiori, anche oltre che Telecom Italia Media, no? Sì, esatto, in questo caso ci si interroga su che cosa succederà. Dopo la cessione di Raset, ricordiamo innanzitutto che il closing, l'operazione della cessione di Raset a Cairo non è ancora terminata. Comunque, dopo la cessione di Raset, Telecom Italia Media ha ovviamente una società svuotata, dove sono rimaste le cosiddette torri, quindi comunque tecnologia che potrebbe stare anche all'interno di Telecom Italia. E quindi il mercato ha iniziato a ragionare sulla possibilità di un delisting dell'azienda. Ecco perché le azioni sono comprate, anche se poi alla fine hanno ridotto i guadagni all'1,6%. Sono andate bene anche i titoli, le azioni della controllante Telecom Italia, che quest'oggi sono salite dell'1,7%, anche se si parla di prezzi molto bassi, alla fine stanno a 0,62 euro. Ancora Seat Vagine Gialle è il peggior titolo, meno 5,26%, il migliore è la Popolare di Milano, più 11,11%, Male anche Mertec-Limont, meno 4,70, Caltagirone meno 3,70, RCS Media Group meno 3,13%, qui c'è attesa per il prossimo consiglio di amministrazione del gruppo Rizzoli Corriere della Sera il 27, se non ricordo male. Sì, esatto, con un Corriere della Sera oggi in sciopero, no? Sì, oggi i giornalisti del Corriere sono in sciopero, il CDA si terrà il 27 per analizzare nel dettaglio la strategia dell'amministratore delegato Pietro Scott Iovane, e ovviamente c'è molta preoccupazione, ci si interroga su soprattutto l'aumento di capitale che potrebbe peraltro essere effettuato magari in due tranche. Ci si interroga anche su come verrà finanziata la società, è tutto da vedere. Certo, anche l'intervista di ieri a Diego Della Valle dalle pagine di Repubblica non è che abbia aiutato, ricordiamo che Diego Della Valle ha gettato un po' benzina sul fuoco auspicando che si sciolga il patto che controlla l'azienda editoriale. Sì, vabbè, non è una posizione nuova, Della Valle da sempre è molto critico col patto di sindacato e ritiene che il gruppo Rizzoli della Sera debba essere gestito in un altro modo, ne ha tutti anche i diritti per dirlo. Andiamo avanti, Atlantia più 4,40%, A2A più 4%, quindi bene anche titoli legati al ciclo, come si dice in gergo, mi riferisco a A2A, Monte dei Paschi l'abbiamo detto, Tenaris più 2,70%, chi perde? Fiat, l'unico titolo, meno 0,80%. Sì, per quanto riguarda i titoli legati al ciclo, come hai detto tu in anticipo, si scommette molto sul fatto che possano essere veramente svincolati questa volta i debiti della pubblica amministrazione, che dovrebbero dare appunto una spinta all'economia. Poi Confindustria ha dato anche delle indicazioni esatte su quello che potrebbe essere l'impatto. Comunque società legate al ciclo ovviamente ne iniziano a beneficiare già solo per l'ipotesi. Fiat invece oggi ha fatto male, è andata in controtendenza appunto meno 0,8, perché hanno preoccupato ieri le indicazioni date da Sergio Marchion, che pur confermando i target per fine anno ha indicato che slitterà l'arbitrato con il sindacato Veba, e questo influirà conseguentemente anche sul processo di quotazione della controllata Chrysler, che conseguentemente slitterà. L'arbitrato infatti era atteso per fine marzo, invece proprio ieri Marchionne ha annunciato che slitterà a giugno-luglio, e quindi questo potrebbe portare tutta una serie di ritardi che evidentemente non piacciono a Piazza Affari. Ancora finiamo con altri titoli, oggi vale la pena commentarla in maniera articolata la borsa, visto anche la giornata, sennò sembra che la commentiamo in maniera articolata solo quando va male. Bene, diciamo, il ciclo, tu ricordavi anche Enel più 2,70, Eni più 1,90%, Enel Green Power più 1,80%. Volete sapere quant'è l'euro? Poco mosso dopo essere sceso 2 giorni fa a 1,28, adesso siamo 1,29,51 per quello che riguarda l'euro. Eleonora, tu sei felice oggi? Sì, moltissimo. Perché? Perché sono appena rientrata dalla Germania, dove ho visto un mondo pazzesco che guarderà al futuro, e spero che questo avvenga presto anche in Italia. Vabbè, ho capito, ma che te sei fatta comprare dai tedeschi? No, spero che avvenga per l'Italia, perché siamo molto più creativi, anzi molti creativi italiani sono proprio nelle case auto tedesche, questa la dice lunga. Sì, rientrare dalla Germania e essere felici secondo me denota qualche squilibrio, ma vabbè, non importa. No, te lo chiedo perché oggi è la giornata mondiale della felicità, quindi siamo obbligati a essere felici. Grazie, allora Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. E infatti, per restare felici, fra poco parliamo di Cipro. I ask nothing of you. Dove le banche, lo prendiamo adesso, resteranno chiuse fino a martedì prossimo. Martedì prossimo. Quindi altro che giovedì, un'intera settimana. minuti, è duro parlare di giornata della felicità per i ciprioti. Appunto, qualche minuto fa si è saputo che le banche resteranno chiuse fino a martedì. Il terrore a questo punto è che vi sia un assalto vero e proprio agli sportelli, altro che il 10% di fuga di capitali inizialmente stimato dalla Banca Centrale Cipriota. Dovevano aprire domani, poi si è saputo che avrebbero riaperto venerdì, a questo punto si va a martedì. A me mi chiedo, adesso noi scherziamo, ma vi rendete conto, banche chiuse per una settimana e mezzo, che cosa vuol dire? Bancomat già svuotati, la Royal Air Force che deve mandare un aereo con 1 milione di sterline per pagare, per dare i contanti ai suoi militari, dove ha una base molto grossa la RAF a Cipro. No, questa è la situazione, dico, dei geni apprendisti stregoni, che adesso sono tutti lì a dire ma non, forse bisogna trovare un'altra soluzione, perché Bruxelles, dopo aver combinato, non tanto Bruxelles ma il Consiglio Europeo della settimana scorsa, quindi i capi di governo, sto casino, adesso dice aspettiamo un'alternativa da Cipro, aspettiamo gli eventi a Cipro, una prossima mossa di Cipro. Presidente del Parlamento Europeo, da sempre scettico il Parlamento su questa misura di prelievo forzoso di conti correnti, Schulz, Martin Schulz, quello che per citare si prese il capo da Berlusconi, ha detto è stato un errore non solo la decisione di prelevare sui dei conti correnti, ma anche fare un vertice dell'Eurogruppo a porte chiuse. Adesso si sveglia anche Angela Merkel, è un dovere dell'Europa trovare una soluzione. La riorganizzazione delle banche è un presupposto per gli aiuti. Però i liberali tedeschi, Brüderle, ex ministro delle finanze, dice beh è pensabile far uscire Cipro dall'euro, e vai. Il governo francese dice il piano di salvataggio di Cipro è stato un errore, ma io chiedo al presidente francese Hollande, ma lei dov'era? Perché l'avete votato voi e anche Moscovici, ministro delle finanze, è un errore, beh non dovevate farlo passare un piano del genere. Ma Vienna, i viennesi, diciamo Anschluss, no? Troppo forte Anschluss, non la traduco. Insomma, sono in linea completa con Berlino, no? E dicono, eh beh no, è giusto, senza il piano di Cipro, le banche di Cipro non potranno avere i fondi dalla Banca Centrale Europea. Allora, noi cerchiamo di capire quale sia il tasso di felicità a Cipro in questo momento, con chi a Cipro si trova, ossia l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Allora, tu sei nella parte russa di Cipro, dove vive questa comunità molto spaventata, ma anche molto ricca, o dove ti trovi? Sei... No, stamattina mi sono spostato da Limassos a Nicosia, quindi sono nel cuore della Cipro cipriota. Ecco, senti, è la notizia che è appena arrivata, che le banche restano chiuse fino a martedì, immagino crea dei problemi enormi anche per la vita quotidiana. Cioè, immaginate se in Italia le banche restassero chiuse per 9 giorni di fila. Hai colto esattamente nel segno, nel senso, i bancomat funzionano, ve lo confermo perché ho appena prelevato io 300 euro con tanto di scontrino, non ci sono Più. Anche perché sennò col cavolo che te le rimborsa sulle 24 ore, per cui tieni uno scontrino. Ecco. col mio bancomat, peraltro. No, quello che preoccupa i ciprioti invece è un'altra cosa. La chiusura prolungata delle banche, tenete conto che un paese nella zona euro che non può fare transazioni bancarie è un paese con un'economia completamente bloccata. Io parlavo con gli imprenditori ciprioti, dicevano come possiamo pagare i nostri fornitori, ordinare le merci, se questi non si fidano che arriveranno, si sbloccheranno i conti bancari, e soprattutto tra poco è la fine del mese, gli stipendi, i ciprioti si domandano ma ci verranno accreditati gli stipendi, ma se le banche sono chiuse come potremmo ritirarli? Tenete conto di questi problemi, a cui se ne giunge un altro. A Cipro è abbastanza non comune ma frequente pagare gli stipendi con un assegno. Ebbene, e se la banca è chiusa come vado a depositare l'assegno e riscuotere i soldi? Sono problemi non da poco. Ecco, tra l'altro leggo assieme a te un'agenzia appena battuta, il premier russo Dmitry Medvedev ha detto l'Unione Europea e Cipro hanno commesso tutti gli errori possibili nella vicenda del piano di salvataggio dell'isola. Devo dire che stavolta, a mio avviso, ha ragione Medvedev, al di là del fatto che parli per l'interesse delle 30.000 oligarchi o miliardari russi lì viventi, lì residenti, ha ragione, tutti gli errori possibili, dei dilettanti lo sbaraglia, anche perché come diciamo ieri con Fitoussi, già il caso greco avrebbe dovuto, la cattiva gestione del caso greco avrebbe dovuto insegnare. Le possibilità che parlando con i vari interlocutori si intravedono a questo punto, che il Parlamento ieri, insomma, il no è stato secco. Allora, ritenteranno con lo stesso piano, magari ammorbidito per i depositi sotto i 20.000 o sotto i 50.000 euro? Ma guarda, le ipotesi sul tavolo sono tante, ma tutte quante piuttosto poco credibili. Adesso è appena arrivata la notizia che la Banca Centrale di Cipro starebbe preparando due misure di emergenza nel caso il governo non trovi una soluzione alternativa che assicuri i finanziamenti. Si parlerebbe di una banca ponte per tenere a freno il deflusso dei depositi e di istituire anche una bad bank, ma sono soluzioni non immediate sicuramente, e invece Cipro ha bisogno di una soluzione immediata. In questo senso i russi hanno comunque tutto sommato ragione. Io parlavo già a giugno, quando venne fuori la bolla di Cipro molto qua, con il presidente dell'associazione bancaria di Cipro, Michael Kamas, che diceva: ma insomma, noi soffriamo a causa delle decisioni politiche europee. Lui così diceva: nel 2010, durante gli stress test, non c'era stata alcuna menzione di un near cut sui titoli greci, e ora ci troviamo al 75%. Le banche cipriote erano molto esposte ed è accaduto quello che... No, questo è un punto fondamentale. Le banche cipriote avevano prestato molti soldi alla Grecia, erano creditrici della Grecia. Quando la Grecia, esatto, poi ristruttura il suo debito, ossia non ridà tutto quello che ha chiesto, questo crea delle forti perdite sulle banche cipriote, giusto? Ah, esattamente, ricordo per sé. Ecco, io adesso è la giornata della felicità, vorrei anche buttarla a ridere, perché il ministro dell'economia cipriota si chiama Demetrios Panikos, Panikos, non so se è nomen omen, però quando potremmo avere una risposta un po' più articolata, cioè quando il governo cipriota tenterà una nuova soluzione, secondo te, Roberto? Ah, qui siamo in alto mare, non si vede una soluzione. C'è stata ieri, l'attenzione era concentrata sulla visita di alcuni ministri ciprioti a Mosca per ottenere l'estensione del credito del prestito di 2,5 miliardi che si estingue nel 2016, ma anche ottenere un'altra linea di credito. Cipro avrebbe addirittura proposto di far entrare la Russia nei suoi futuri asset energetici del gas, che sono una risorsa comunque dello Stato che non dovrebbe essere toccata. Cipro dispone di molte riserve di gas, e paradossalmente, paradosso del paradosso, avviene una situazione strana. Se davvero così succedesse, cosa del tutto improbabile, come hanno detto i russi, l'Unione Europea, che sperava di diversificare l'esportazione di gas dalla Russia per affrancarsi dal gioco energetico russo e sviluppare il gas di Cipro vicino, si ritrova qui a Russia e Cipro. Sì, vabbè. Insomma, mi sembra il minore dei problemi, anche perché altri problemucci stanno arrivando dalle banche slovene, ma non posso nella giornata della felicità parlare anche delle banche slovene. Ringrazio Roberto Bongiorno, in collegamento con noi da Cipro, lo risentiremo anche domani. È la giornata della felicità, chiudiamo con, visto che ce lo chiedete, con una canzone che diceva: ci vuole un pazzo, devi essere pazzo per essere sano, forse con questo mondo e con queste gestioni è il modo migliore per essere felici. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.